La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Puntuali come sempre il sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Questa è La Rosa Purpurea, quella che vi porta dentro e fuori il grande schermo del cinema. È una settimana densissima, 13 nuove uscite, esattamente come la settimana scorsa, una in meno della settimana prossima, insomma quasi 40 film, anzi 40 film precisamente in tre settimane. Certo, c'è da avere molto tempo libero, un portafoglio abbastanza sostenuto, ma noi siamo qui apposta per fare selezione, per raccontarvi cosa secondo noi valga la pena essere visto e cosa nel caso invece non valga la pena. Sicuramente vale la pena il film con cui vogliamo cominciare, aprire questa nostra Rosa Purpurea. È un film che arriva dalla Spagna, è un thriller bello teso che ha portato a casa parecchi premi Goya, che sono gli Oscar spagnoli, considerato il miglior film spagnolo dell'anno in assoluto. Si intitola La vendetta di un uomo tranquillo, è stato presentato a Venezia lo scorso anno, da lì ha cominciato il suo percorso anche nelle sale, percorso arrivato appunto ai maggiori i premi del paese iberico. Noi abbiamo mandato a vederlo la nostra Chiara Pizziventi. Vai, vai, vai, vai! A terra! Ah, finalmente! Pensavo che non saresti venuto! Dai, dai, dai! E Anna, ti piace? Non abbiamo più 15 anni. E occhio non vede... Da dove sei uscito tu? Sei sola da un bel po'. Sono sola da 8 anni, da quando è andato in carcere. Bisogna fare una premessa raccontando La vendetta di un uomo tranquillo. Meno si sa entrando in sala, meglio è. Vi racconteremo quindi il meno possibile. Il rumore dell'inizio della clip è quello di un'auto in fuga dopo una rapina. Una rapina finita male, con vittime, per cui paga solo una persona, l'uomo alla guida, quello che doveva solo aspettare in macchina. Curro si chiama. È quello in carcere che ha lasciato Anna sola per 8 anni. L'altro è all'apparenza un amante casuale e passeggero della donna, ma è ricco, diverso dall'ambiente che frequenta. Solo l'incrocio dei rapporti fra i tre fa il film. È da molto che non ho loro notizie. Erano del mio vecchio quartiere. Mi servivano soldi e mi proposero quello. Dovevo solo guidare. Il primo anno uno è venuto a trovarmi in carcere 3 o 4 volte. Viveva ancora nel quartiere, con sua madre. Ma poi non l'ho più visto. Come si chiama? Si chiama Santi. Santi. Non conosco nessuno con quello. Ma lo chiamano alcuni. Grazie lo stesso, prego. E gli altri? Julio e Robert. Con Julio giocavamo a calcio insieme da bambini. Robert era più grande di noi. Era stato dentro un paio di volte, credo. In teoria era quello con più esperienza. A voi scoprire chi si vendica di chi e in che modo e qual è davvero l'uomo tranquillo che vuole la vendetta del titolo del film d'esordio di Raúl Arévalo, 38enne attore spagnolo visto negli Amanti passeggeri di Almodóvar e nella Isla Minima. Un film premiato con 4 Goya, miglior film, regista esordiente, attore non protagonista e sceneggiatura originale e piaciuto alle giornate veneziane degli autori. Un film che fa molto bene il suo lavoro di thriller, ti tiene fermo alla poltrona a chiederti cosa succederà in una caccia che sa anche di western. La sceneggiatura è stata scritta 8 anni fa in un bar di periferia brutto come quello che si vede nella pellicola, partendo proprio da un discorso da bar. Per trovare i finanziamenti ci sono voluti 4 anni, 6 le settimane di riprese, un grande successo in patria. E la vendetta non è il centro del film, secondo il regista, quanto piuttosto il rapporto fra i personaggi, crudo, animalesco e violento, ma non senza che scappi un sorriso ogni tanto. E il segreto sta nel fatto che lo spettatore sa poco, ma anche i protagonisti sanno solo parte di quello che accade. Tutto realistico, non è Tarantino, è più Gomorra. E Chiara Pizziventi ci ha raccontato La vendetta di un uomo tranquillo, un bel filmone di quelli tosti per chi ama il thriller. In sala. In sala spopola ovviamente La Bella e la Bestia, questo noi l'avevamo detto già dalla settimana, era facile insomma, dalla settimana di uscita. La notizia di questa settimana è che è diventato il film più visto di questa stagione cinematografica, cioè a partire dal 1 agosto ha superato l'altro disneyano Alla ricerca di Dory, che si era plafonato a 15 milioni circa di incasso. La Bella e la Bestia veleggia verso i 16, chiuderà questo weekend oltre i 17-18, si avvicinerà ai fatidici 20. Chissà se questo weekend sarà quello buono per avere dei competitor dopo due settimane senza alcuna storia. Per esempio, il film di cui vi parleremo fra poco è uno dei capisaldi delle uscite di questa settimana, Ghost in the Shell, con Scarlett Johansson, che nel primo giorno di programmazione è stato l'unico a dare un po' battaglia al disneyano La Bella e la Bestia. Questo chiaramente lo staremo a vedere. Per il momento sicuramente è ancora un dominio quello del film targato Disney, che però poi anche fra gli ascoltatori nostri e gli spettatori soprattutto che l'hanno visto in sala ha avuto accoglienze anche abbastanza tiepide, ma come dicevamo già nei giorni scorsi, questo è un brand che va avanti con le sue gambe, magari un po' infischiandosene almeno nelle prime settimane di quello che è il parere generale. Poi pian piano però forse la differenza fra diventare un successo memorabile e fermarsi invece a un successo importante starebbe proprio lì. Da segnalare sempre per quanto riguarda la classifica, la settimana scorsa, nello scorso weekend, il buon avvio di Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi, che si è posizionato al terzo posto, mentre sono partiti un po' più lentamente altri film della scorsa settimana. Adesso diamo la linea alla viabilità, perché fra poco ci colleghiamo con Boris Sollazzo e cominciamo con la prima di una serie di proposte italiane molto interessanti di questa settimana, con la firma di Claudio Amendola. Si intitola Il permesso, 48 ore fuori, ed è un thriller invece, anzi una sorta di revenge movie all'italiana. Fra poco qui alla Rosa Purpura. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo, e c'è la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Sono stato un criminale e sono stato anche un padre di merda. Sono 17 anni che sto in galera e adesso là fuori mio figlio si è messo a spacciare. Non lo sa quello che rischia. Solo chi c'è stato in galera sa cosa vuol dire. E io lo so. Adesso mi hanno dato un permesso di 48 ore. Solo 48 ore. Per cercare di essere un padre migliore. Spero di fare in tempo. Arriva il revenge movie all'italiana, Il permesso, 48 ore fuori. Il titolo ci dice già molto della storia di questo film, che è l'opera seconda di Claudio Amendola, Dietro la macchina da presa, un po' noir, un po' appunto thriller psicologico, un po' sicuramente molto film di vendetta, che è un sottogenere proprio del thriller. Quattro detenuti escono dal carcere di Civitavecchia con 48 ore di permesso. Chiaramente i permessi vengono accordati per ricongiungersi ai propri cari, per rivedere amici, per riassaggiare un attimo quel profumo di libertà, ma queste 48 ore saranno utilizzate dai quattro carcerati in maniera molto diversa e a volte non totalmente edificante. Io saluto Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. Un film, questo, che mi ha incuriosito sin dall'inizio, intanto perché c'è uno staff, diciamo un cast operativo che va appunto da Claudio Amendola, che oltre a essere dietro la macchina da presa è anche davanti come attore, insieme a Luca Argentero, un Luca Argentero quasi irriconoscibile anche proprio nel lavoro vocale che ha fatto in questo film, Valentina Bellè, Ivan Franek, volti conosciuti o anche meno conosciuti. Però la grande curiosità mi è scattata proprio nel vedere il cinema italiano continuare questa corsa verso il genere, che secondo me può portare risultati positivi, continuare a cercare un film di intrattenimento con dei canoni però espressivi. E qui siamo appunto nel revenge movie, nel Park Chan-wook, se vogliamo, un po' all'italiana, con la storia di questi quattro carcerati che scelgono di passare queste 48 ore in maniere molto diverse fra di loro. Beh sì, Parcian Walk matriciana, anche se non si vede mai, un primo piatto alla romana nel film, perché poi appunto potrebbe essere Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altro luogo, non luogo, in questo insomma è molto simile alla Napoli di Falchi di Tony D'Angelo. E hai ragione, cioè questo percorso nel cinema di genere duro e puro è un sentiero che il cinema italiano sta prendendo con registi molto sensibili agli attori, e Claudio Amendola non può non esserlo, essendo stato poi un autore bravissimo di cinema di genere per Risi, per Tognazzi, e venendo poi dall'esperienza di Suburra, di Solli, ma che in qualche modo gli ha restituito quell'immagine non da cattivo ma appunto da duro, che poi ripercorre anche in questo Il Permesso. Di sicuro è un sentiero anche redditizio, perché ha esordito Il Permesso come miglior film italiano, terzo in classifica, quindi sicuramente il pubblico sta rispondendo e sta dicendo forse al nostro cinema, al nostro grande schermo, che si può andare oltre la commedia. Vedendo Il Permesso, intanto viene il rimpianto che Claudio Amendola abbia iniziato a fare il regista solo dopo 50 anni, perché dopo La Mossa del Pinguino, che era una commedia se vogliamo più facile, però comunque riuscita, adesso fa una prova di maturità notevole con questo film. Lo fa prendendosi dei rischi, perché mettere il bello Luca Argentero, ora icona della commedia romantica, in un ruolo molto scorbutico, molto difficile, in cui ci sono forse 20-25 parole e molti sguardi, molta fisicità, non era facile, e Luca Argentero vince questa scommessa. Vince questa scommessa anche con tutti però gli attori di contorno. Mi vengono in mente Giacomo Ferrara, che è uno dei quattro detenuti. Mi viene in mente un attore straordinario, eccezionale, che viene spesso sottovalutato, come Antonino Iorio. La forza del film sta tutta nel fatto che in 48 ore di Permesso, stiamo dalle parti, per citare sempre Amendola, di Vilma Labbate, non si deve costruire una struttura di sceneggiatura chissà quanto complessa, ma bisogna costruire dei personaggi che abbiano nella loro semplicità anche la loro complessità, perché in 48 ore, come dice anche la clip che abbiamo sentito, devono in qualche modo risolvere la propria vita, devono fare i conti con la propria vita anche in maniera drastica. È bravo Amendola a non cercare scorciatoie di scrittura, sarebbe stato troppo facile far incontrare magari con una svolta anche prevedibile Argentero e Amendola, e invece le storie vanno avanti parallele. È bravo a cercare l'epicità e anche l'eticità senza però sfogarsi nella retorica. E questa linea molto fragile, molto sottile, una sottile linea nera, anzi una sottile linea noir, Amendola la percorre con grande sensibilità, grande bravura e anche grande umiltà. Quello che ne esce fuori, secondo me, è un film molto interessante, esteticamente assolutamente non banale, e molto coinvolgente, per cui a un certo punto quella poltrona diventa qualcosa che ti avvolge, sei pronto e vuoi sapere come andrà a finire, entri in empatia con personaggi difficili da amare, ma che ti entrano dentro. Questo per un film italiano che sceglie, come abbiamo detto, una strada non convenzionale è un grande risultato, quindi per me è uno dei consigli della settimana. Quando mi hanno detto che avevano messo la mia donna a fare la puttana, è stata una coltellata. Se ne approfittano perché io sto in prigione. Ma non lo sanno che mi hanno dato 48 ore di permesso. Ed è tempo di ridargliela quella coltellata. E allora, è uno dei consigli della settimana, Il Permesso, 48 ore fuori nei cinema italiani. E adesso noi invece ci prendiamo il permesso di giocare insieme, di cominciare a svelare la prima traccia del film misterioso di oggi. Come hai? Aria, è la mia specialità. Ti mostrerò il resto, ma devi promettere di non scappare via. E allora, è abbastanza criptica. Oggi Miriam Lucchetti in redazione è stata, come dire, molto molto rigorosa. Vedremo poi se con la seconda traccia avrà svelato qualcosa di più. Certo, si sentiva una voce, diciamo, infantile nella seconda parte della clip. E questo chiaramente ci fa pensare alla presenza di bambini. E allora, che bambini saranno quelli di questo film? Se avete già indovinato, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, e provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi aspettano e che sveleremo entro la fine della trasmissione. E adesso la verità, vi spiego sull'amore. Allora facciamo così, un passo alla volta. Tutte le donne quando vengono lasciate si tagliano i capelli. Domani andiamo dal parrucchiere? Ti porto da quelle cinesi, che è un'esperienza violenta, sai? Ti danno questi colpi di spazzola fortissimi. Guarda che una mia collega triste è andata dalla massaggiatrice cinese. E quella alla fine del massaggio gli ha detto: lecco patata? Allora depilati. Che c'è? Sono triste. Non lo so, mica lo so. Però io non lecco patata. Avete capito che siamo in un clima di assoluta commedia con questo film, La verità vi spiego sull'amore, diretto da Max Croci con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini ed Edoardo Pesce nei ruoli principali, ma anche Massimo Poggio, Giuliana De Sio a completare il cast di una storia che parte da un blog di grande successo, Tiasmo, e diventa una commedia sul grande schermo. La vita di Dora, interpretata appunto da Ambra Angiolini, che viene lasciata dal compagno Davide con due figli piccoli, uno di 5 anni, Pietro, e addirittura la piccolina Anna, di solo un anno. Chiaramente trovarsi di fronte a questa nuova realtà è qualcosa di traumatizzante, si fa fatica ad arrivare alla fine della giornata e a un certo punto soprattutto i figli chiedono il conto, cioè chiedono conto di quel papà che non c'è più e che forse bisognerà spiegare che non è uscito per lavoro, come si è detto fino a quel momento. Boris, torniamo a parlare appunto di cinema italiano, che è dominante in questo fine settimana. E appunto qui invece alle prese con qualcosa che di solito ci riesce piuttosto bene, come la commedia. Qui, come dicevamo, l'origine è un blog. Come è diventato film? Con quali risultati? Beh, è un cinema onestamente derivativo, nel senso che il fatto che venga da internet, venga da un blog che poi è diventato anche libro, proprio con questo, lo stesso titolo del film, Erika Tesio ha una scrittura brillante, divertente, romantica ma senza essere sdolcinata. Max Croci, con la sua grazia, perché poi ha un'estetica sempre interessante, l'abbiamo visto anche in altri film con Luca Argentero, se torna anche diciamo uno l'attore, anche se in questo film non c'è, ha questa caratteristica di essere molto vicino alla modalità espressiva della rete. Faccio un esempio: c'è una scena molto divertente in un parco pubblico in cui Ambra Angiolini e Carolina Crescentini sostanzialmente fanno la radiografia ai diversi tipi di mamme. Ecco, quello è la classica traduzione in immagini di quegli articoli che trovate su internet, i 10 tipi di mamme che potete trovare a un parco pubblico. L'onestà intellettuale e artistica di Max Croci è non cercare di capovolgere in qualche modo la grammatica di internet, ma di sposarla, quindi tanti sguardi in camera, tanta voce off, tante scene che potrebbero essere spezzettate in decine di clip che poi potrebbero finire magari in una web series. Non è forse cinema tout court, questo sicuramente, non è nemmeno la classica commedia all'italiana. È probabilmente qualcosa che funzionerebbe ancora meglio proprio sulla rete, ma tra il piccolo schermo del PC o dello smartphone e il grande schermo della sala continua ad essere più redditizio, sembra incredibile, il secondo, e quindi giustamente si traduce per un certo target tutta quella realtà in un film. È bravo Max Croci a fare alcune cose, a scriverlo in modo che di poter cucire tutte queste gag in una storia piuttosto credibile. Sono brave le attrici ad adattarsi, brava Ambra Angiolini ad essere proprio la sarta che con la sua recitazione si unisce tutti i tasselli del puzzle, è brava Carolina Crescentini nel fare una Corinna un po' meno divertente è ancora più svampita la Corinna di Boris, ovviamente molto divertente in alcuni momenti comici, ed è bravo Max Croci a trovarsi anche tutta una serie di comprimari che funzionano. Penso per esempio alla parte comica di Edoardo Pesce, penso per esempio alle due nonne molto particolari, Giuliana Desio, che dimostra anche in piccole parti di essere una grande attrice, e Pia Engelbert. Penso anche a Massimo Poggio, che a fare il belloccio in Crisi di mezza età ci sta benissimo. Parliamo di un capolavoro? Assolutamente no. Parliamo di un film che può parlare al suo pubblico, che promette quanto mantiene? Assolutamente sì, e quindi è da promuovere. Chiaramente consiglio di andare tutti a tutti coloro che amano quel tipo di blog, amano quel tipo di comunicazione. Oddio, che c'è? Shh, vieni via, vieni via. Mamma, aggrappolo. Mamma che? Shh, mamma, aggrappolo. Aggrappolo come le emorroidi. Girano in branchi. I loro figli non hanno anni, ma mesi. 17 mesi, 26 mesi, come la grappa barricata. No, certo. Organizzano di tutto. Pizzate, apericene, ludotecate. Se ti tirano dentro una volta, sei fottuta per sempre. Shh. E questo lo sa chiunque dentro un gruppo WhatsApp di mamme e genitori di bambini che vanno a scuola. La verità, vi spiego, sull'amore nei cinema italiani. Linea alla regia. Torniamo fra poco. Un altro film a completare il terzetto italiano, Classe Z. Qui ci spostiamo sui banchi delle superiori. E poi il film più atteso forse di questo periodo per tutto un certo tipo di pubblico, Ghost in the Shell. Fra poco. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. La rosa purpurea. E trasferiamoci, sempre restando al cinema italiano, in una classe superiore, la classe Z, una classe che, come dire, è piuttosto turbolenta, ed è quella raccontata in questo nuovo film che appunto riprende un pochino gli stilemi di un certo tipo di cinema che racconta gli ultimi anni di scuola, una classe difficile in questo caso, dove la Z sta proprio per quello, dove sono stati piazzati praticamente i peggiori della classe, di un sacco di classi. Messi insieme chiaramente diventano detonanti l'uno per l'altro, e allora la storia raccontata da Guido Chiesa ha anche un suo, come dire, spaccato sociale, cioè ci racconta delle marachelle, ci fa ridere con le storie di questi ragazzi, ma ci racconta anche un po' uno spaccato della nostra scuola e di quali possano essere i suoi pregi, ma anche e soprattutto i suoi difetti al giorno d'oggi. Sentiamo la clip. Ragazzi, visto che oggi è una bellissima giornata, facciamo lezioni in cortile. Seguitemi. Dai, su, in piedi. Grazie Pinna, state comodi. Ma voi, in piedi! Non se ne parla, prof. Ieri ho fatto spinning, c'ho le gambe sfasciate. Va bene, avete esonerata? Qualcun altro è devastato dallo spinning? No? Se venite vi lascio fumare. Prevedibilità. E la riscossa di questi ragazzi ha il volto di un giovane professore, Marco Andreoli, interpretato da Andrea Pisani, che, citando anche esplicitamente il professore di Robin Williams nell'Attimo Fuggente, cerca di entrare in contatto, in empatia con questi ragazzi di una classe difficile, quasi, non dico coetanei, ma insomma non ci manca molto, e di provare a tirar fuori il meglio di questi ragazzi, forse allontanandosi dai programmi, da quello che i regolamenti dicono. La vicenda sembra avere a un certo punto un certo successo, anche se tutto il film è un flashback, tutto il film parte dalla fine, parte da una commissione che è quella appunto del dell'istituto che sta giudicando questo professor Andreoli, che aveva cercato di porgere la mano a questi ragazzi. Perché lo sta facendo è esattamente quello che nel film rivivremo completamente in flashback, come dicevamo. Boris, terzo film italiano di cui parliamo oggi, terza specialità, questa volta ci trasferiamo, dicevamo, nella scuola, che è stata foriera di tante commedie, di tanti film anche molto, molto interessanti e molto riusciti nel nostro cinema recente. Come se la cava questa volta Guido Chiesa? Ma Guido Chiesa intanto ha il merito di aver avuto almeno tre carriere, quella americana di genere, poi quella d'autore e adesso quella redditizia di una commedia commerciale pop, e lo fa tutto con quella sua capacità di avere una grazia nella regia e un'attenzione che non in molti hanno. Per intenderci, l'atmosfera, il mood del film è quando la poesia di Walt Whitman, O capitano, mio capitano, diventa Un capitano, c'è solo un capitano. È quello il mood del film, è quello l'ambiente che di cui si sente il profumo. È un modo umile di approcciare un film che probabilmente Chiesa ritiene anche sopravvalutato, come L'attimo fuggente, non lo tratta bene, insomma. C'è anche una mini recensione molto cattiva, e quando Andrea Pisani nella prima lezione vuole farlo vedere, insomma, finisce malissimo, perché poi la scuola italiana è una scuola purtroppo bella per tanti versi, ma anche ai noi cialtrona, e spesso non è colpa né dei professori né degli alunni, ma di come è fatta. Classe Z ha più o meno le stesse caratteristiche della Verità vi spiego sull'amore. Ci sono tanti youtuber, c'è il mondo dei food blog. Anche qui Chiesa ha l'intelligenza di mettere il cinema al servizio di un modo comunicativo che è un modo comunicativo dei ragazzi per i ragazzi. C'è Greta Menchi, che è la diva assoluta di youtuber, ci sono tanti altri suoi colleghi, parlano ai loro spettatori, parlano ai milioni di contatti che fanno, e lì la scommessa è capire se questi milioni di contatti che vanno gratuitamente ad ascoltarli su YouTube poi andranno anche al cinema. È interessante però, secondo me, l'esperimento che c'è alla base di tutto questo, cioè che è un esperimento che stanno provando a fare solo Indigo e Colorado, due case di produzione e distribuzione che hanno deciso non più di vampirizzare i teenager cercando di portarli al cinema magari facendo dei trailer o dei manifesti che facciano l'occhiolino a una certa generazione, ma hanno cominciato a fare dei film per loro e con loro. E questo è molto importante, perché i teenager sono quelli che riempiono le sale cinematografiche. Anche qui non siamo di fronte a un capolavoro, ma siamo di fronte a un film fatto bene, dove ci sono anche, a mio parere, dei talenti che potranno andare avanti. Penso ad Alice Pagani, l'alunna un pochino meno impreparata, penso ad Andrea Pisani, che sta facendo un lento percorso, l'avevamo già visto in Fuga di cervelli, è un comico, gioca sulle parodie, qua fa un film più serio, è lui il professore, e si costruisce un gruppo che, come nel film, man mano che capisce l'importanza della coralità, migliora nel film. E quindi, come dicevi tu, in un inizio piuttosto lento e anche di presentazione, si instaura poi un film che invece riesce a costruirsi con umiltà, con capacità di entrare nel cuore degli spettatori, e alla fine, secondo me, la pagnotta la porta a casa. È una commedia che sicuramente farà storcere il naso ai turisti, perché ha tanto della comunicazione moderna, ma forse dovremmo cominciare a pensare che ci sono tanti diversi tipi di pubblico e tutti meritano di avere un film in cui riconoscersi. E se andranno al cinema questi ragazzi che vengono raccontati in Classe Z, probabilmente riusciranno a riconoscersi. Classe Z nei cinema italiani, la seconda traccia del nostro film misterioso per voi. Noi siamo conosciuti come gli speciali. Hai già incontrato i gemelli? E beh, qui tanto rigorosa nella prima clip quanto generosa in questa seconda la nostra redazione, perché qui si capisce molto, si parla di bambini speciali, si parla di gemelli, insomma, di che film si tratta. Ci sono due Blu-ray che vi attendono, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Fra poco vi sveliamo l'arcano di questa settimana. E adesso invece andiamo avanti con Ghost in the Shell, film che, come dire, ha le stigmate in termini produttivi sicuramente per farsi considerare un Ghostbuster, un film di largo consumo, un film di cassetta. Prende le mosse da un amatissimo anime del 1995, un film d'animazione giapponese che era basato a sua volta su un manga di grande successo. Il film appunto si intitolava Ghost in the Shell ed era diretto all'epoca da Mamoru Oshii, e questa volta invece siamo nel live action, anche se con abbondante computerizzazione. Rupert Sanders alla regia, Scarlett Johansson nei panni della protagonista, e poi Michael Pitt, Michael Wincott, Takeshi Kitano nel cast di questo futuro distopico nel quale questa ragazza totalmente robotizzata, tranne il cervello che si connette a questo corpo finto, cerca di capire sostanzialmente chi è, da dove viene, e nel frattempo fa anche un po' la scudiera della giustizia in questo mondo che somiglia tanto, forse anche troppo, a quello di Blade Runner. A tutte le unità di pattugliamento aereo, possibile attività criminale cibernetica nelle vicinanze. Lo spazio aereo delle zone adiacenti verrà chiuso. La sezione 9 è attualmente al suo posto. Ripeto, a tutte le unità di pattugliamento aereo, possibile attività criminale cibernetica nelle vicinanze. Qui è il maggiore, sono sul posto. Boris, un film molto atteso intanto da tutta una parte del pubblico, con tante aspettative, perché quando si parte da un anime così amato, chiaramente rendere tutto live non è un esperimento facile. Come se la cava Scarlett Johansson, come se la cava in genere Rupert Sanders con questo film? Beh, in quasi tutte le recensioni di oggi abbiamo parlato di Target, e forse la cosa ideale per recensire Ghost in the Shell è proprio continuare a parlare di Target. Se non conoscete Ghost in the Shell, andatelo a vedere abbastanza tranquillamente, troverete un film non straordinario, ma che vi potrà dare qualche spunto di interesse, nonostante secondo me il ruolo di protagonista di Scarlett Johansson è la parte più fragile del film, perché non gli dà quello spessore, non gli dà quell'indefinitezza che la storia necessita, che è una storia distopica, di un futuro distopico, di una crisi di identità individuale ma anche globale, perché la crisi di identità di una donna che ha un cervello umano e un corpo robotico è di fatto la metafora potentissima, almeno così nasceva nel manga, di un mondo che deve fare i conti con un progresso che sta diventando morboso, che sta diventando estremo, che sta diventando disumanizzante. E, se invece conoscete molto bene il manga di Shiro Masamune, se avete amato il film di Oshii, Ghost in the Shell, ma persino il sequel, anzi due sequel, e allora è difficile salvarlo Ghost in the Shell, perché quel film, quell'immaginario ha rivoluzionato il nostro modo di pensare e vedere il futuro insieme ad Akira. È stato forse la rivoluzione in immagini ferme e in movimento più potente che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. E qui invece viene tutto standardizzato, viene tutto reso conforme, come dici tu, somiglia molto troppo a Blade Runner, senza averne né lo spessore intellettuale né la capacità di giocare sui chiaroscuri, sulla fotografia, sul dolore di un racconto che deve essere umano anche se di fatto non lo è. Ghost in the Shell vive secondo me il confronto in maniera terribile, perché di fatto non riesce mai a raggiungere né quei livelli visivi, che probabilmente nell'animazione erano anche più facili da raggiungere a livello tecnico e anche secondo le possibilità che si avevano con i colori, con la fotografia, e invece si standardizza su un futuro che abbiamo visto già troppo in questi ultimi anni. Come abbiamo detto, tra l'altro, Scarlett Johansson, a mio parere, ha una fragilità incredibile, ce l'avevano già detto di fatto sia Michael Bay che Luc Besson. Se a Scarlett Johansson non si dà, come hanno fatto in passato De Palma e Woody Allen, ruoli fortemente ambigui, ruoli che ne sottolineano da una parte la sensualità burrosa, dall'altra anche il lato oscuro, lei da sola non riesce a dare spessore a un personaggio. In più non è facilitata sicuramente da un ruolo che prevede diciamo una recitazione inevitabilmente quasi neutra. Quindi gli unici a cui posso consigliarlo sono quelli che amano la fantascienza, che amano il futuro distopico, ma non lo amano abbastanza da averne fatte scorpacciate in passato. Se invece avete in testa il Ghost in the Shell passato, rimanete lontani dalle sale perché rimarrete irrimediabilmente delusi. Contattate lo staff del presidente, lo sorvegliano. Dottor Osmond, che cos'è che vuole da noi? Io parlerei di cosa la Anka Robotics può fare per voi. Il 73% di questo mondo vive nell'era del potenziamento cibernetico. Volete restare indietro? Il mio popolo sposa i potenziamenti cibernetici al pari di me. Ma nessuno comprende il rischio che esiste per l'individualità, l'identità, nel provocare l'anima umana. E allora Ghost in the Shell era l'ultimo film, l'ultima novità in sala di cui ci siamo occupati in questa ricca settimana. Io saluto e ringrazio Boris Sollazzo. Alla prossima settimana e buon cinema. Grazie Boris. Noi adesso diamo la linea alla viabilità. Fra poco torniamo, facciamo un piccolo passo indietro alla notte dei David di Donatello, che avevamo solo sfiorato la scorsa settimana. Sentiremo la voce di Stefano Accorsi, miglior attore di questa tornata, e poi tutto il cinema da vedere in casa. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, La Rosa Purpurea. Prima di svelarvi il titolo del film misterioso di oggi, mi raccomando, state con noi fino alla fine. Ritorna sulla notte dei David di Donatello, che si è svolta il 27 marzo agli studi De Paulis di Roma, condotta da Alessandro Cattelan, e che ha incoronato come miglior film dell'anno La pazza gioia di Paolo Virzì, tra l'altro anche premiato come miglior regista. E su questo penso non ci siano dubbi, su quale sia stato il film italiano che più ci ha fatto un po' anche sognare, rinnamorare un po' di un certo nostro cinema. Però poi statisticamente La pazza gioia di Davide ne porta a casa 5, mentre Indivisibili, che questo è un bel film e anche una bella sorpresa, e Veloce come il vento sono i due film che ne portano a casa 6. Chiaramente Indivisibili ha avuto grande visibilità per una serie di motivazioni, a partire dalle musiche. Ricordate la storia di queste due gemelle siamesi che cantano neomelodiche in contrasto con una famiglia che le vorrebbe tenere ancorate in questo ruolo ed evitare che si possano dividere. Invece Veloce come il vento, sempre ritornando al discorso sul cinema italiano di genere in atto da un paio di stagioni, ebbene lì è un tentativo invece di fare un film di automobilismo, di velocità, di macchine, con uno straordinario Stefano Accorsi, premiato come miglior attore protagonista. Chiara Pizzimenti ha raccolto proprio da Stefano Accorsi il parere dell'attore su questo ruolo. Sentiamo. È un ruolo che ho adorato, che ho amato tantissimo, il mio Loris De Martino, il ballerino, Vacaboy, è un ruolo che mi è restato nel cuore, come capita ogni tanto, insomma. È un ruolo anche raro, cioè non è un ruolo che capita spesso ad un attore di poter interpretare. E in questo ho avuto, diciamo, una bellissima occasione, un grande incontro con Matteo Rovere, il nostro regista, ritrovare Domenico Procacci, che ho sempre trovato un produttore molto audace e sognatore. Pochi durante la carriera di questi personaggi indelebili, posso chiederti se ce n'è qualcuno che mi nomineresti di indelebile? Per me, dici? Dei miei, di quelli che ho fatto, ma sicuramente ce ne sono vari, devo dire che comunque Freccia, di Radio Freccia, il film con Ligabue è stato un altro di questi momenti che ricordo sempre con grande piacere, sicuramente anche Veloce come il vento, lo so, lo sento, Carlo dell'ultimo bacio, Michele delle fatte ignoranti, insomma devo dire che ce ne sono stati vari, poi magari ce ne sono alcuni che lo sono per me, anche se magari sono personaggi meno iconici da un certo punto di vista, però quando abbiamo fatto I piccoli maestri di Daniele Lucchetti, ecco, fare il personaggio di Luigi Meneghello è stato una grande, grande esperienza. Stefano Accorsi raccontava così appunto a Chiara Pizzimenti il suo amore per questo ruolo di questo pilota un po' sbandato che però torna alla vittoria, anche una sorta di rinascita, quella raccontata da Veloce come il vento. E a questo punto noi andiamo in atmosfera cinema da vedere in casa, cominciando a risentire e a svelare i nomi dei vincitori del game della scorsa settimana. Non hai dormito neanche stanotte. Mi conosci? Non dormo mai. Si trattava di Animali notturni, raffinato noir thriller psicologico che ha aperto questa stagione, diretto da Tom Ford con Amy Adams e Jake Gyllenhaal e Michael Shannon, anche lo straordinario Michael Shannon nel cast. I due ascoltatori che per primi hanno indovinato e che quindi si portano a casa il Blu-ray di questo film sono Stefano Boselli di Torino e Giovanni Traina di Bologna. E allora noi ci colleghiamo con la redazione di Fil TV, con Giulio San Giorgio, per farci raccontare un po' questa edizione in Blu-ray di Animali notturni. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, la storia è quella di una gallerista di Los Angeles che riceve un regalo inatteso, un manoscritto firmato dal suo ex marito di cui non ha notizie da anni. Mentre il marito attuale è assente per l'ennesimo sospetto viaggio di affari, la protagonista si immerge nella lettura e scopre in una narrazione ad incastri che in una storia raccontata, in un romanzo, possono essere sepolte tantissime tensioni realissime, tantissimi risentimenti e non detti messi a macerare. E soprattutto che una storia d'amore può nascondere sotto un violentissimo noir. Un grande film di Tom Ford, stilista che sa come parlare e come sfregiare a suo modo il mondo patinato che sta intorno al privilegio artistico. Un film veramente sottovalutato, secondo me, dalla critica che conta, ma assolutamente da recuperare in un ottimo Blu-ray che è accompagnato da solo un extra, che è un making of di 11 minuti. È assolutamente un film da rivedere. Io l'avevo molto amato quando l'avevo visto in sala, e hai ragione, Giulio, aveva avuto un pochino di glissature di troppo da parte della critica, invece è un gran film. Andiamo avanti dando un'occhiata ai palinsesti TV. A proposito di grandi film, uno che ha fatto sicuramente epoca è Dogville di Lars von Trier del 2003, che va in onda domenica 2 aprile su Iris alle 2:05 di notte. Sì, siamo negli anni 30 e una donna braccata da malfattori ripara in un villaggio di campagna. Quando la popolazione locale prova in a conoscenza di una taglia sulla fuggitiva, i paesani cercano di sfruttare la situazione. È un saggio programmatico e veramente molto dimostrativo sulla profonda cattiveria dell'uomo, questo di Von Trier. Il Dog di Dogville è veramente il contrario di God e di Godville, la città del Signore. Gli uomini qui sono come bestie, pronti a sopraffare, a umiliare, e non capiscono nemmeno di avere di fronte Grace, la protagonista, che per loro potrebbe essere una possibile grazia, che comunque non li perdonerà. È un film in costume, ma assolutamente privo di scenografia, se non quella disegnata sul pavimento di un grande capannone di città. Insomma, noi vediamo tutto, ma tutti fingono di non vedere. Anche questo è un grande film di Lars von Trier con una Nicole Kidman veramente strepitosa. È una scenografia molto molto interessante, molti l'hanno soprannominata il Monopoli di Lars von Trier, ma effettivamente è totalmente stilizzata. Allora, se Dogville è l'appuntamento di domenica 2 alle 2:05 di notte su Iris, mercoledì 5 invece l'omaggio di Rai Movie a Thomas Millian, che ci ha lasciato il 22 marzo scorso, con Delitto di Porta Romana di Bruno Corbucci. Sì, siamo a Milano e il ladruncolo Franco, detto Venticello, sottrae le chiavi di casa di un appartamento. L'improvviso rientro del padrone di casa, in dolce compagnia, costringe Venticello a nascondersi sotto il letto. Quando il padrone di casa se ne va, il ladro si trova di fronte al cadavere di una donna. L'indagine viene affidata a Nico Giraldi. È uno dei migliori film con protagonista appunto il Nico Giraldi di Thomas Millian e Bombolo, trash con cognizione di causa, tanto mestiere per risate crasse, è un buon modo per ricordare l'attore esule cubano che fu adottato dall'Italia, ma l'Italia di ogni serie, dalla di Antonioni alla profondissima serie B. E ricordiamo l'appuntamento Delitto a Porta Romana di Bruno Corbucci su Rai Movie mercoledì 5 aprile alle 19.30. Grazie Giulio, ci sentiamo settimana prossima. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, il tempo per svelare il film misterioso di oggi. Si trattava di Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali, è il Blu-ray con cui abbiamo giocato questa settimana, i vincitori. La settimana prossima qui alla Rosa Purpurea, sabato alle 18, a risentirci.